se le elezioni di Catania si fossero svolte un mese fa, in concomitanza con le regionali, il loro esito non avrebbe fatto più chiasso, come dice il poeta, delle lacrime di un passero. L'insediamento sociale e le tradizioni politiche di quella città sono quello che sono, ed è comunque abbastanza ovvio che, a prescindere dai sondaggi, la legge elettorale vigente dà al sindaco in carica un robusto vantaggio, specie quando gli si contrappone un personaggio che, per quante benemerenze civiche abbia acquisito in passato, non ha dimostrato né come ministro né negli impegni politici successivi alcun talento particolare. E dato che il voto amministrativo può servire da indicatore delle tendenze politiche generali e solo quando riguarda porzioni abbastanza ampie e ben differenziate del territorio, il centro-sinistra avrebbe potuto accettare la conferma del dottor Scapaccini sotto l'Etna con la stessa equanimità con cui aveva accolto quella del Pio Formigoni qui in Lombardia. In fondo si è trattato in entrambi i casi di una conferma in discesa, con un bel po' di voti in meno rispetto alla volta prima. Altra era ed è la tendenza su scala nazionale, e su questo sarebbe stato giusto e opportuno riflettere e far riflettere. Ma che? Dopo il trionfo alle regionali, la conferma in Basilicata, quella in Trentino e in Sardegna, i capintesta dell'Unione, come si definiscono adesso, dovevano avere proprio una gran voglia di perdere. Non si sarebbero precipitati, se no, ad accettare il punto di vista di chi vedeva nel voto di Catania la madre di tutte le battaglie, non avrebbero proiettato con tanta ingenuità su quel risultato le speranze di mandare subito a casa Berlusconi, con l'implicita conseguenza di cominciare subito a litigare sui posti, come si è visto. Avrebbero risposto alla sfida con un allegro ma va, e si sarebbero concentrati sul compito piuttosto urgente di dare a una coalizione malferma quel tanto di solidarietà necessario per tirare avanti. Con il che Berlusconi, che ha vinto a Catania ma ha perso in quasi tutto il resto, avrebbe dovuto fare i conti con quella sgradevole situazione. Invece adesso lo sciagurato è più vispo che mai. E i principali commentatori, che fino a domenica non parlavano d'altro che delle trame intessute dall'infido Casini per fargli da festa, sono liberi di dare il massimo spazio possibile agli scambi di ceffoni tra Rutelli e Fassino, che, visto che nulla scoraggia l'elettorato quanto la percezione di una diffusa rissosità nella propria coalizione di riferimento, è un modo ingegnoso di spostarsi di campo senza prendersi neppure il disturbo di dichiararlo. Ma forse non è il caso di attribuire in toto questa specie di capovolgimento percettivo all'eterna vocazione a farsi del male che caratterizza le forze progressiste del paese, se vogliamo continuare a chiamarle così. Il fatto è che negli ultimi 10 anni le regole del gioco politico, i meccanismi di formazione e di registrazione del consenso si sono trasformati parecchio. La contrapposizione tra proporzionale e maggioritario, che ha segnato la crisi del sistema democristiano e che turba ancora i sogni dei vari Rutelli, ormai è preistoria. I voti, in qualsiasi modo vi si conti, interessano sempre meno. Il potere nasce altrove, nasce dalla quantità di esposizione televisiva e giornalistica che ciascuno può accaparrarsi, dalla frequenza delle sue apparizioni, dalla sua capacità di farsi personaggio e notizia. Berlusconi, nelle sue continue geremiadi sulla televisione che non gli vuole bene, sarà forse un po' paranoico ed è sicuramente assai spudorato, ma dà prova di un sano e concreto realismo. Non si lamenta perché l'elettorato lo abbandona, ma perché la televisione, a suo dire, non gli dà abbastanza spazio, come se fosse convinto, e probabilmente lo è, che questo e non altro sia il problema base dell'elettorato in sé, dei singoli elettori che fanno la crocina sulla scheda, deve avere la stessa idea che Napoleone, se si può fare un paragone così sbilanciato, aveva delle salmerie. Presto o tardi, dandogli il tempo, arrivano anche loro. Ma il vero stratega deve occuparsi d'altro. È una lezione questa che qualcuno ha imparato anche nel campo avverso, per esempio il buon Bertinotti, che non a caso vede crescere la propria influenza, il proprio peso politico, anche se il suo partito dal punto di vista dei voti un po' arranca. Si tratta, in ultima analisi, di una variante contemporanea del vecchio sioma per cui la notizia conta più del fatto. Anzi, di solito lo determina. E nella logica delle notizie, si sa, quella che conta è l'ultima. La penultima roba di ieri, giornalisticamente irrilevante, di scarso o nullo appeal comunicazionale, è buona al massimo per incartarci le verdure al mercato. Anzi, visto che le notizie, come noto, su carta non circolano quasi più, non serve neanche per quello. Insomma, il voto di Catania non ha rappresentato soltanto la conferma di un sindaco e una maggioranza. È il fatto in sé lecito e non disdicevole, soprattutto se si considera l'alternativa che a quei poveri elettori veniva proposta. È stata anche la conferma di quanto sia clamorosamente truccato il gioco politico cui siamo chiamati a partecipare. Peccato soltanto che di conferme del genere non avessimo davvero bisogno.